140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Universal Music, Milano. A un anno dalla vittoria a Sanremo Giovani torna Antonio Maggio con un nuovo album, L'Equazione, anche se non è mai stato bravo in matematica. No, anche perché io prendevo sempre Santo Ronzo in matematica, che Santo Ronzo è il patrono di Lecce, sta proprio in piazza con questo 3 sparato al cielo, e quindi ogni compito di matematica il professore diceva Maggio Santo Ronzo. E quindi di sicuro non parla di matematica. È un'equazione ovviamente metaforica che è un po' il bigliettino da visita di tutto ciò che racconto nel disco, di questo filo conduttore che c'è un po' tra tutti i brani, filo conduttore di speranza affinché tutte le difficoltà che stiamo vivendo possano diventare delle opportunità poi nella realtà dei fatti. E l'equazione, a parte che c'è anche il primo singolo estratto che dà proprio il titolo all'album, appunto, deve essere risolta prima dentro ognuno di noi per poi individualmente contribuire al bene un po' più collettivo. Sono l'equazione che mai ti riesce, chiodo schiaccia chiodo quando l'occhio non vede, questo è il tempo dei parlano in troppi, tu vieni con me, vieni con me, tu vieni con me, vieni con me. Parli molto della realtà di oggi, questo tempo di rivoluzione, dici nell'equazione, ma anche nei ringraziamenti del CD. Ringrazio l'Italia perché nonostante tutto è un posto fichissimo, però è anche un posto in cui un posto fisso lo hanno trovato solo le paure, quindi ti sei, col tuo modo dissacrante, ironico di scrivere i testi, ti sei interrogato molto sui tempi di oggi. Sì, perché è giusto anche che sia così, la mia generazione ha un po' questo compito arduo, difficile di doversi rimboccare le maniche, perché prima o poi qualcuno lo dovrà fare, perciò tanto vale farlo quanto prima possibile, quindi già da noi giovani deve venire un input per mettere in atto un cambiamento, perché necessitiamo di un cambiamento. Poi che i bimbi di oggi magari ne gioveranno un po' più di quello che stiamo avendo noi oggi. Però guardi anche al passato, guardi al passato con un omaggio al tuo conterraneo, anzi compaesano, praticamente Domenico Modugno, fai una dissacrazione di Bocca de Rosa de André con questa Pompe Funebri da Lucrezia, e già dire dissacrazione de André, sai che qualcuno si spaventerà. Sì, no, ma infatti chiariamo subito, perché io prendo una bella tangenziale non e ci arrivo veramente di striscio, perché non mi permetterei mai, poi parliamo di uno dei più grandi di sempre, perciò ho voluto presentare a modo mio un personaggio simile a quello di Bocca di Rosa, ovviamente collocato nei nostri giorni. Pompe funebri da Lucrezia, Lucrezia, pompe funebri. Pompe funebri da Lucrezia, Lucrezia, pompe funebri. Qui vi offriamo la migliore cortesia, può trattarsi del parente o l'amico della zia. Ah, povera la zia! Tu quando hai partecipato hai sempre vinto, X Factor, Sanremo. Quest'anno invece Sanremo è stata, cosa è stata? Una sconfitta non essere stato scelto? Ma no, credo che ci sia un destino, insomma, in ognuno di noi. Io ho sempre avuto una luce dall'alto che mi ha dove mi ha mandato, insomma, mi ha portato solo cose belle. Magari conoscevano questa cosa, hanno detto: questo caso mai viene di nuovo qua e succede di nuovo quello che fa sempre. No, scherzo, ovviamente. Ho avuto un anno intensissimo, quindi magari fermarsi un attimo, non fare tutto subito può giovare, insomma. Buio così fitto che lo puoi toccare. Tu sei la mia luce, tu sei come un temporale. Mi dai volontà, sei nella genesi dell'aria. Riformattare un cuore per ricominciare a vivere con te. Ma adesso mal d'amore, non me ne parlare. Fuori sta nevicando, è così bello qui con te. Ma Ultima cosa, come si dice, dulcis in fundo, però c'è anche amore nei testi delle canzoni, bello. Una canzone Una, d'amore cioè. lasciatemela almeno, dico, su 11 tracce, dico. C'è Genesi Mal d'amore che è una vera e propria canzone d'amore. Poi c'è un amore un po' diverso, però, che è proprio l'essenza del sentimento nell'etere. E queste, in mezzo a tutte queste difficoltà, insomma, c'è la genuinità del sentimento che vince su tutto, ecco. Una canzone e mezzo, diciamo, d'amore, consentitemela, altrimenti non si piagne, se non si ride soltanto. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Antonio Maggio. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.